Convertite le frazioni in percentuali. Calcolate un quarto di 100%. Ma attenzione! A voi interessa sapere quanto resta per raggiungere il 100%, non quanto è già stato dato.